e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Cuore Denari, allora per il secondo giorno consecutivo, ma questa tendenza non durerà a lungo perché domani ricostituiamo il nostro duetto. Sono da sola questa mattina, ma naturalmente come ogni giorno vi facciamo compagnia con tutte le notizie che interessano le famiglie, riguardano la salute, le novità per quello che riguarda il nostro stile di vita, ma tutte le notizie anche che riguardano i nostri denari. Anche oggi abbiamo una puntata assolutamente ricca di notizie, direi di partire subito, caro Carmello, con la nostra rassegna stampa. Partiamo subito con l'andamento dei mercati finanziari. Anche oggi vedo una giornata piuttosto ballerina, ripartita male Piazza Affari per poi risalire. Adesso sta muovendosi attorno alla parità, meno 0,06%. Il FTSE MIB Parigi scende dello 0,16%, Francoforte meno 0,21%, Londra più pesante, meno 0,64%. Vi anticipo già che oggi è giovedì, ritorna Investire Informati a partire dalle 11:15 circa e faremo un punto della situazione su questa volatilità di borsa. Abbiamo delle giornate un po' più tranquille rispetto a quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi, ma tutto sommato ancora qualche momento di turbamento e vulnerabilità lo registriamo ancora. Piazza Affari fanno parlare di sé, tanto per cambiare, i titoli del settore bancario che comunque oggi vedo in recupero rispetto alla disfatta di ieri. I migliori titoli sono la Popolare dell'Emilia Romagna, che guadagna 2,5 punti, stanno andando bene, e anche tutti gli altri, Monte dei Paschi, Pop Milano e il Banco Popolare, ma sono in risalita di 1,5 punti, quindi poca cosa rispetto a quello che hanno perso ieri. Oggi protagonista della giornata negativo purtroppo è Generali, sta perdendo 4 punti, ha comunicato i suoi risultati stamattina che sono anche molto buoni. Il gruppo ha anche preannunciato che farà un aumento della politica di remunerazione agli azionisti, quindi dei dividendi, ma evidentemente qualche target non ha soddisfatto il consenso di mercato e quindi titolo in scivolata di 4 punti. Va male anche Luxottica, meno 1,72, Azimut meno 1,66. Oggi abbiamo anche in programma un'asta del tesoro di BTP a 3, 7 e 15 anni per un importo compreso fra i 5,5 miliardi e i 7,5 miliardi. Più tardi naturalmente vi daremo il risultato di questa operazione. Pensioni, lavoro, patto generazionale, importanza della previdenza complementare che aumenta anche alla luce della consapevolezza portata dalle proiezioni, non incoraggianti per tutti, della busta arancione. Sono i temi al centro della 6ª edizione della Giornata Nazionale della Previdenza del Lavoro, che si è aperta appunto ieri a Napoli ed è in corso in questi giorni. Negli ultimi anni molte sfide hanno investito il sistema previdenziale, la crisi finanziaria, i mutamenti demografici, le difficoltà occupazionali. Lo ha detto ieri nel messaggio che ha inviato per l'occasione il Presidente della Repubblica Mattarella. È importante, ha rimarcato il Presidente, proprio per questi motivi, creare occasioni di riflessione e crescita della consapevolezza sul tema previdenziale italiano. Andando avanti con le notizie di denari, prestar casa con Airbnb in Italia fa incassare 2.300 euro l'anno nel 2015, secondo dati resi noti ieri a Roma dall'ormai famosissima società di home sharing. 3,6 milioni di persone hanno utilizzato il servizio, con un impatto economico di 3 miliardi e 400 milioni di euro. Firenze sarebbe la città dove si incassa di più, mettendo a disposizione la propria casa su questa piattaforma, 6.300 euro di media l'anno. Il soggiorno medio è di 3,6 notti contro le 3 notti degli hotel tradizionali e ogni host, cioè ogni persona che ospita appunto e dà la disponibilità della sua casa, apre appunto le porte di casa o di stanza in media per ben 26 notti l'anno, arrivando a guadagnare in media appunto 2.300 euro. Su questi dati di Airbnb naturalmente hanno puntato subito il riflettore, l'associazione dei consumatori, che comunque qualche cosa che non funziona devono sempre trovarlo, giustamente sono proprio dei grilli parlanti della società. L'associazione ADOC ricorda che se da un lato la sharing economy può essere un mezzo per la crescita del paese, dall'altro resta il tema, è che qua va in qualche maniera comunque monitorato, dell'evasione fiscale da parte degli host. Allo stato attuale dei fatti, infatti, Airbnb lascerebbe agli host la responsabilità di mettersi in regola con il pagamento delle tasse locali, assumendo una posizione neutra su questa faccenda. In Italia, ricorda sempre l'ADOC, le entrate derivanti da questa attività devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi sotto la voce redditi diversi, cumulandosi con gli altri eventuali redditi percepiti su cui viene poi calcolata la tassazione IRPEF finale. Torniamo adesso invece alle notizie di cuore. Amici per la pelle, non proprio. Secondo uno studio recente dell'Università di Tel Aviv e del Massachusetts, emerge che non siamo abbastanza bravi a giudicare l'amicizia. I veri amici, cioè coloro che contraccambiano il nostro sentimento nei loro confronti, sono appena la metà di quelli che pensiamo di avere. I ricercatori hanno pensato una sorta di algoritmo dell'amicizia per stabilire in maniera il più possibile oggettiva quali rapporti siano improntati alla reciprocità e quali no. In attesa delle applicazioni pratiche di questo algoritmo, potete riascoltare una puntata che abbiamo fatto proprio qualche tempo fa con il dottor Aquilar, dove abbiamo parlato proprio di questo argomento. A proposito di pelle, invece, arriva dal MIT di Boston una seconda pelle che promette di regalare un aspetto giovane, però lo fa solo per 24 ore. Si tratta di un polimero invisibile, idratante e indossabile che, secondo i ricercatori, sarebbe in grado di ripristinare le proprietà estetiche e funzionali di una pelle giovane e sana. Lo studio, pubblicato su Nature, sostiene che questo film biomimetico, devo essere attenta a pronunciare correttamente le parole scientifiche, altrimenti poi domani Nicoletta mi sgrida, è elastico, invisibile, durevole, aderisce bene, se applicato sulla pelle può rinforzarla, riducendo l'aspetto di rughe e borse sotto gli occhi, insomma manna per noi donne. È una soluzione che, secondo gli esperti, potrà essere utile anche per combattere le malattie come la psoriasi. Per chiudere, torniamo in Italia parlando di sport. Sono in corsa a Roma gli internazionali di tennis e per l'occasione il campione di tennis Andy Murray ha ribadito il proprio impegno a sostegno della lotta contro la malaria. Il campione britannico, vincitore di un grande slam e dell'oro olimpico a Londra nel 2012, dal 2009 è uno dei principali testimonial della charity Malaria No More UK, il cui scopo è proprio eradicare la malaria da tutto il mondo anche attraverso il finanziamento del Fondo Globale, il più grande finanziatore mondiale di programmi per combattere e sconfiggere non solo la malaria ma anche la tubercolosi e l'AIDS. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare. Allora, dalla malaria al prossimo tema che affrontiamo, come primo approfondimento per la parte di cuore, il passo è breve. Allora, della serie Chi cerca trova, in effetti sarà proprio così, con, segnatevi bene questo nome, ZanzaMap. È un'app gratuita, un'applicazione, ormai questo termine è entrato pienamente nel nostro gergo quotidiano, nata in Italia, che permette di ottenere, tramite l'aiuto dei cittadini, pensate, una mappa delle zone più o meno infestate dalle zanzare. Insomma, lo smartphone ci dà una mano, ormai lo utilizziamo per tutto, se non possiamo più vivere senza applicazioni di ogni tipo, ma noi cerchiamo di capire qualcosa in più rispetto a questa novità che riguarda un problema che affronteremo molto insistentemente, soprattutto nei prossimi mesi estivi. E quindi ci facciamo spiegare tutto dalla dottoressa Alessandra Della Torre, del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza di Roma. Dottoressa Della Torre, buongiorno e benvenuta. Grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Ormai, insomma, lo smartphone ci salva la vita ovunque, ci possiamo dimenticare qualunque cosa a casa, perché tanto basta non dimenticarsi il telefono che siamo a posto. Allora, intanto, dottoressa Della Torre, per una volta tanto un'applicazione che non viene fuori dalla Silicon Valley in California, ma insomma un merito tutto italiano, ma soprattutto un vostro grande lavoro di squadra. Sì, assolutamente. Diciamo che questa idea per noi che occupiamo da sempre di zanzare, soprattutto in quanto insetti che con la loro puntura possono trasmettere malattie, voi avete appena parlato di malaria, le infatti zanzare trasmettono naturalmente anche la malaria, e abbiamo sempre pensato che questo potesse essere uno strumento utile, ma poi siamo riusciti a realizzarlo grazie al dottor Cesare Bianchi, un informatico che autonomamente, senza neanche conoscersi, aveva pensato, sensibilizzato dall'epidemia di Zika degli ultimi infatti mesi, che uno strumento del genere potesse essere utile, e poi dal contatto e dalla collaborazione con lui è nata ZanzaMap. Benissimo. Allora, prima di svelare tutto il meccanismo di funzionamento di questa utilissima applicazione, in prospettiva direi che possiamo andare a sentire cosa sta succedendo sulle strade e le autostrade italiane, e poi torniamo insieme alla dottoressa Della Torre. Cuore e denari. Naturalmente già qualche ascoltatore ci sta segnalando, salutate la vostra zanzara per eccellenza, il vostro Giuseppe Cruciani, ma naturalmente lo facciamo, insomma non ha bisogno di questa applicazione per poter essere rintracciato. Giuseppe, noi abbiamo con noi stamattina la dottoressa, la professoressa Alessandra Della Torre del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza di Roma, con la quale vogliamo spiegare adesso ai nostri ascoltatori come funziona questa Zanza Map, questa applicazione gratuita, lo ribadisco, nata in Italia, che permette attraverso l'aiuto dei cittadini di ottenere proprio una mappa delle zone più o meno infestate dalle zanzare. Intanto, professoressa Della Torre, è possibile già scaricarla? Sì, sì, assolutamente è possibile scaricarla. Esiste anche un sito, zanzamap.it, ed è importantissimo quello che lei ha anticipato, cioè il successo di questa applicazione dipenderà non tanto da noi quanto soprattutto dai cittadini. Certo, come vi è venuta l'idea di elaborare un'applicazione di questo tipo, ma soprattutto appunto attraverso il coinvolgimento dei cittadini? Diciamo che per noi che lavoriamo in questo campo avere dei dati validi sulla distribuzione reale delle zanzare, che sappiamo che è molto poco uniforme nello spazio, nel territorio, è un esercizio molto complicato che richiede molto lavoro e molti soldi. E quindi abbiamo pensato che questo tipo di monitoraggio, diciamo, scientificamente rigoroso potrebbe beneficiare moltissimo dell'associazione con invece dati della segnalazione dei cittadini di quello che loro percepiscono come il fastidio delle zanzare. Infatti. Allora, andiamo proprio a cercare di capire bene come funziona. Una volta che l'abbiamo scaricata, appunto, e l'abbiamo lì ben visibile questa applicazione sul nostro smartphone, che ne so, magari professoressa Della Torre, muovendoci, cominciando a pensare anche a quelle che potranno essere le nostre prossime mete per le vacanze, magari portandoci dietro dei bambini che sono generalmente le vittime predestinate appunto e preferite delle zanzare, possiamo cercare di capire se il luogo che raggiungeremo è particolarmente sensibile alla presenza di zanzare o meno, quindi dobbiamo mettere una località e ci dice cosa succede in quel posto? Diciamo che questo è il secondo passaggio. Il primo passaggio è che le persone segnalino la presenza, certo, o è importante anche l'assenza delle zanzare nella località dove si trovano. Quindi l'incoraggiamento è a tutti di scaricare la Zanza Map il prima possibile e cominciare a impratichirsi con lo strumento, anche segnalandoci che in questo momento, ad esempio nel loro giardino, nella loro casa, non ci sono zanzare, in modo tale che poi ci segnaleranno quando queste zanzare arriveranno e ci permetteranno anche di valutare appunto la dinamica stagionale di queste specie. E diciamo che il sito e l'applicazione sarà tanto più utile quanto più segnalazioni, sia in positivo che in negativo, avremo dai cittadini, perché in base a questo si costruirà la mappa che lei diceva e che poi potrà essere consultata per vedere le zone dove c'è più una percezione maggiore del fastidio delle zanzare o una percezione minore. Certo, ma e oltre di conseguenza. Professoressa Della Torre, ad essere utile naturalmente a tutti i cittadini, soprattutto a quelli che vivono il problema della zanzara in maniera molto fastidiosa, perché c'è chi ha veramente questa predisposizione ad essere colpito in maniera veramente violenta in estate. Per esempio, al vostro dipartimento questa mappatura cosa servirà? Ci sono due livelli diversi. Noi che ci occupiamo soprattutto di ricerca, per esempio, ci potrebbe consentire, questo è uno degli obiettivi, di, in base ai dati che raccoglieremo, prevedere quali saranno le zone più infestate. Questo naturalmente poter prevedere è un elemento molto utile per poi anche prevedere dei controlli eventualmente. Allora, intanto fine ultimo, sì. Scusi. No, sì, che ci accavalliamo. Non ha fatto bene. Doveva dire due cose e io l'ho interrotta, mi scusi. Diciamo che il fine ultimo è quello che noi auspichiamo e che poi chi si fa carico delle disinfestazioni, quindi le amministrazioni soprattutto comunali, possano utilizzare questo sito loro stessi per avere uno strumento in più per valutare quale aree trattare e quale non trattare. Infatti, quindi insomma è molto utile anche ai fini dell'attività delle pubbliche amministrazioni, che chiaramente sono chiamate un po' anche a bonificare quelle aree particolarmente ricche di presenza di zanzare. Intanto abbiamo ancora qualche minuto di tempo per metterci a disposizione degli ascoltatori che vogliono farci delle domande dirette sul funzionamento di questa applicazione all'800 24 00 24. Comunque, professoressa Della Torre, in questo momento momento, in questa settimana che ha visto in tante regioni questo brusco calo delle temperature, siamo al sicuro o comunque cominciano già a fare capolino? Le zanzare? Le zanzare sono di tante specie e l'Italia è grande, quindi fare un discorso un po' generale è un po' complesso, però rispetto alla zanzara tigre, che è una delle specie che sicuramente è più diffusa in Italia e dà più fastidio, più o meno si sa che nel mese di aprile e maggio cominciano a schiudere le uova che la zanzara depone in autunno e che poi passano la stagione invernale sotto forma appunto di uova in ibernazione. Quindi sicuramente queste uova stanno schiudendo, le larve si stanno formando e cominciano a esserci i primi adulti. Certo. Però i mesi peggiori sappiamo essere da luglio a settembre. Intanto, professoressa Della Torre, mentre lei mi stava rispondendo, io sul mio PC che ho qui di fronte a me ho aperto il vostro sito per cercare di capire come funzionasse. Web Zanza Map mi chiede intanto di conoscere la posizione dove sono, quindi mi chiede il consenso o meno, e poi mi dice anche subito: la prima visualizzazione che ho è questa. Segnalare anche qui nessuna zanzara, è ugualmente importante, diccelo comunque, è utile per avere un dato di partenza per analizzare meglio la situazione se e quando arriveranno. Avete già avuto, professoressa Della Torre, delle adesioni da parte dei cittadini? Insomma, noi oggi cerchiamo di raccontare un po' come funziona questo servizio, ma lo avete già divulgato e quindi qualche iscrizione, qualche scarico di appunto applicazione l'avete già avuto? Sì, devo dire che l'app è disponibile da pochi giorni, siamo abbastanza contenti, abbiamo ricevuto oltre 6.000 segnalazioni tra quelle negative e quelle positive, soprattutto concentrate a Roma, forse perché noi siamo a Roma e facciamo una pubblicità più capillare, però anche segnalazioni in altre parti d'Italia, quindi come inizio è incoraggiante. Incoraggiante, benissimo. Professoressa Della Torre, quando si parla di zanzare in questo periodo, così come succedeva anche nei mesi precedenti, il primo pensiero va subito al fenomeno Zika, del quale abbiamo tanto parlato nei mesi passati. A che punto siamo nella lotta contro questa speciale zanzara? Allora, Zika è un virus che viene trasmesso da una zanzara tropicale nei paesi in cui si registra l'epidemia, fondamentalmente in tutto il Sud America. E che si conosceva già da qualche decennio, ma che quest'anno, l'anno scorso, ha cominciato a dare un numero di casi veramente impressionanti, a cominciare dal Brasile. Che è successo con la telefonata della professoressa Della Torre? Eccoci. Io ci sono. Eccoci qua, non capiamo niente. Qualche zanzara che ci ha un attimo censurato, sì. Zika, completiamo. Dicevo che questo virus appunto era già conosciuto, ma non aveva dato mai epidemie così impressionanti come quelle in corso in Brasile o nel Sud America. In queste zone è trasmessa da una zanzara diversa da quelle che noi abbiamo in Italia, ma strettamente imparentata alla zanzara tigre. La zanzara tigre è in grado di trasmettere questo virus, anche se meno efficacemente di quella specie che lo trasmette nelle aree tropicali. Quindi esiste un rischio non elevatissimo ma concreto che se arriveranno in Italia persone che si sono infettate di questo virus nei paesi dove c'è l'epidemia e se vengono punte da una zanzara tigre locale, questa possa innescare una trasmissione di questo virus anche nel nostro paese. Benissimo, non tanto. Insomma, comunque invitiamo gli ascoltatori a tenere bene a mente queste raccomandazioni della professoressa Alessandra Della Torre, ma soprattutto scaricate Zanza Map e diteci se questo servizio vi è utile, così lo comunicheremo anche noi al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza di Roma. Facciamo questa mappatura italiana della presenza delle zanzare. Grazie professoressa Della Torre, buon lavoro e complimenti per questa iniziativa. Grazie a voi. A presto, noi ci fermiamo, abbiamo il giornale radio, ma torniamo tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. cuore e denari. I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. E allora questi giovani quanto bisogna controllarli, ma soprattutto come? Parental control sì o parental control no? Questo è il dilemma. Proprio su questo tema si è concentrato uno studio di YouKids Online. I risultati di questa indagine hanno sottolineato che queste, perché vengono chiamate così in maniera politicamente corretta, forme di mediazione da parte dei genitori, quindi non veri e propri controlli sul loro comportamento, in realtà appunto queste forme di mediazione avrebbero l'effetto contrario. Allora, come mai si è arrivati a questi risultati? Noi oggi commentiamo questi studi con la professoressa Giovanna Mascheroni, ricercatrice alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali all'Università Cattolica di Milano, ma soprattutto referente italiana di questo progetto YouKids Online. Professoressa Mascheroni, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Un tema molto caldo per i nostri ascoltatori, che invitiamo naturalmente ad intervenire all'800 24 00 24. Allora, voi come concepite il tema del filtro di famiglia? Vi fidate dei vostri ragazzi? Filtro che utilizzate come? Quando loro circolano, quando loro frequentano internet? Li utilizzate anche quando guardano il televisore? Insomma, come esercitate queste forme di controllo? Raccontatecelo. Se volete intervenire in diretta avete il numero verde, potete anche scriverci al 349-238-6666, sms o whatsapp, insomma in ogni modalità whatsapp, quella preferita dai ragazzi. Allora, professoressa Mascheroni, intanto ci racconta un po' che cosa dice questo studio e poi naturalmente vorremmo anche spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è YouKids Online. Sì, allora YouKids Online è una rete di ricercatori europei, attualmente siamo presenti in 33 paesi. Perché nel frattempo si sono giunti anche colleghi del Brasile, dell'Australia, della Russia, e siamo stati finanziati fino al 2014 dal Safer Internet Program della Commissione Europea, e in particolare abbiamo fatto una grossa survey nel 2010 che ha coinvolto oltre 25.000 ragazzi e i loro genitori. Una survey è una grande ricerca, un'indagine, sì, un'indagine quantitativa, un questionario che abbiamo somministrato a 25.000 ragazzi di 9-16 anni e i loro genitori in ogni paese. E nel 2012 la Commissione Europea ha finanziato un altro studio più piccolo, che ho avuto la fortuna di coordinare direttamente, sull'accesso a internet da smartphone e tablet, che si chiama Children Go Mobile, diciamo che è la sorellina minore, e per cui per alcuni paesi era uno studio più ridotto, ma per alcuni paesi abbiamo proprio dei dati di carattere longitudinale, per cui abbiamo potuto confrontare quello che è successo nel tempo e cosa cambia con smartphone e tablet. E cosa ha cambiato nel tempo? E cosa è cambiato nel tempo? Che cresce l'accesso privatizzato e in mobilità, cioè sempre meno sotto controllo, perché gli smartphone sono degli strumenti personali, perché hanno degli schermi piccoli, perché è molto più difficile fare delle cose insieme ai figli sullo smartphone che non farle davanti a un computer. Le dico già che c'è l'ospite che la seguirà a Cuore Denari, con il quale parleremo poi di mercati finanziari, tutt'altro argomento, ma che vedo che già annuisce su questo tema. Insomma, ci dice, professoressa Mascheroni, che cosa si intende esattamente per parental control? Voi appunto lo chiamate in termine, non so se appunto, come dire, universitario, nel gergo dei ricercatori, forma di mediazione da parte dei genitori, ma in realtà parliamo di un controllo vero e proprio esercitato sui comportamenti dei ragazzi quando appunto utilizzano internet, i social network, guardano la TV. Esattamente cosa si intende con questo? Sì, infatti noi le forme di mediazione che i genitori possono adottare sono di diverso tipo, con diverse efficacia e con diversi significati. Appunto, noi parliamo di una mediazione attiva dell'uso quando ci riferiamo a pratiche come il dialogo o il fare le cose insieme, spiegare quello che va bene, quello che non va bene, suggerire modi positivi per usare le tecnologie. Parliamo di mediazione restrittiva quando ci riferiamo all'imporre delle regole, che siano regole di carattere temporale, per cui non puoi portare il cellulare a tavola, piuttosto che non puoi giocare alla PlayStation finché non hai finito i compiti, o non puoi guardare la televisione finché non hai finito i compiti. Il termine restrittivo non è sempre positivo, ma in realtà a me questi sembrano degli insegnamenti educativi, non propriamente restrittivi negativi. No, allora, le regole servono e sono importanti. Non si può affidare tutto esclusivamente alla mediazione restrittiva, cioè all'imposizione di regole, o all'uso di software, quella che noi chiamiamo la mediazione tecnica o tecnologica. Il problema è quando i filtri famiglia, parental control, come vogliamo chiamarli, diventano un sostituto del genitore. Mm. Allora, senta, che cosa ci racconta questo studio che presentiamo questa mattina? Perché mi pare di capire che la conclusione è che questi filtri di famiglia alla fine abbiano addirittura delle conseguenze negative, limitando le opportunità di internet per i ragazzi che oggi hanno ben poche alternative al viaggiare appunto in rete per risolvere tanti, tanti problemi, non solo di carattere sociale, ma a volte anche appunto relativi alla scuola. E poi a quanto pare addirittura rischierebbero di compromettere la relazione di fiducia fra genitori e figli, per cui parental control sì, ma esercitati appunto in maniera corretta. Cosa dice lo studio? Sì, esatto, non devono sostituirsi al genitore. Noi abbiamo un po' la tendenza oggi a cercare un'app per qualsiasi problema nella vita quotidiana, non soltanto nell'essere genitori, no? Ma qualsiasi problema noi abbiamo di fronte, cerchiamo un'app che ci aiuti a risolverlo. E i parental control non devono essere vissuti appunto come l'app che risolve tutti i problemi del genitore e sostituirsi al genitore. Innanzitutto c'è da fare un discorso legato all'età, per cui magari questi software hanno senso rispetto ai bambini più piccoli. Nell'adolescenza pongono tutta una serie, e preadolescenza e adolescenza pongono tutta una serie di problemi che vanno da quello che si diceva già da molti anni, cioè in realtà poi l'adolescente riesce facilmente ad aggirare i limiti di un parental control, ha in realtà appunto dei problemi più seri dal punto di vista della relazione genitori-figli, quando appunto vanno a sostituire il dialogo. Il problema è che mettendo questi strumenti non possiamo evitare comunque di impegnarci nelle altre forme di mediazione. Evidentemente. No? Senta, ma mi incuriosisce molto questo fatto che, a prescindere da quello che lei ci diceva prima, le varie forme restrittive di parental control, no? Finché si cena naturalmente non puoi tenere in mano il telefonino, ma mi colpisce un po' di più, che questo mi sembra anche come dire una cosa naturale, il fatto che esistano delle applicazioni che consentono ai genitori di controllare i figli se utilizzano a loro volta con i loro dispositivi tecnologici, internet o guardano la televisione. Ma sono così diffuse queste applicazioni, visto che stamattina il tema dell'applicazione è stata anche utilizzata più volte nel corso di Cuore Denari, ne abbiamo parlato anche addirittura per monitorare e mappare la presenza di zanzare in Italia. Ci sono anche queste? Allora, devo dire che in Italia e in generale in Europa non sono molto utilizzati, anche per una questione culturale. La differenza con gli Stati Uniti su questo piano è invece enorme, per cui leggevo proprio l'altro giorno dei dati americani del Pew Internet, dove la maggioranza dei genitori americani non si fa nessun problema ad ammettere che loro controllano il cellulare del figlio, controllano le chiamate, i messaggi e tutto. Invece noi culturalmente siamo un po' diversi, no? In effetti usano questa espressione negli Stati Uniti che rende molto bene l'idea del genitore elicottero. C'è un genitore che vola proprio come un elicottero da guerra, vola abbastanza basso e pattuglia tutto, è sempre pronto a intervenire laddove ce ne sia bisogno. Incredibile. No. Sì. Senta, infatti, allora, quindi abbiamo insomma questo fenomeno negli Stati Uniti e noi siamo un pochino più indietro, chissà se colmeremo questo gap e se lo faremo appunto in maniera corretta e responsabile. Prima di salutarla, professoressa Mascheroni, le faccio sentire l'osservazione di Giorgio da Padova, che punta un po' il riflettore sul tema anche della differenza di genere, sul controllo da esercitare sui figli. Giorgio, benvenuto. Buongiorno, benvenuto, grazie per lo spazio. Padre di figlie femmine, immagino, se si pone il problema che ci vuole porre. Io ho due figlie femmine ormai grandi, 18 e 22 anni, quindi sono un po' fuori, il problema non ce l'ho più, diciamo. Vabbè, però confermo però che è difficile applicare i filtri perché si limitano le possibilità di fruizione. A un certo punto io ho dovuto toglierli perché non riuscivano più a girare su internet per la scuola, quindi confermo quello che ha detto la dottoressa, però mi incuriosiva un po' così, avendo due femmine appunto vivo nella non so se è un'illusione o meno che abbiano bisogno di meno filtri, che siano più mature rispetto alle loro coetanee, i maschi, e quindi mi chiedevo se magari con le femmine i filtri potessero essere meno restrittivi oppure più restrittivi con i maschi. O semplicemente differenti, Giorgio. Grazie molte. Grazie, esatto. Giorgio. Grazie, professoressa Mascheroni, una bellissima osservazione quella di Giorgio. Sì, assolutamente. In realtà molto curiosa perché poi va contro le evidenze empiriche, nel senso che in realtà i dati ci dicono che di solito i genitori sono più preoccupati rispetto alla sicurezza online delle figlie femmine. Mm. Per cui le figlie femmine, le ragazze sono più controllate dei maschi, e le ragazze e i bambini piccoli, no? Per cui è una questione di genere, è una questione di età, ci si preoccupa di più per i più piccoli e per le ragazze, e per certi tipi di ambienti, per cui ci si preoccupa di più per i social network, ci si preoccupa di meno magari dei giochi online. E comunque ha ragione Giorgio quando dice, almeno lui parla della sua esperienza, ma insomma l'universo femminile viene percepito un pochino come più maturo rispetto all'utilizzo di internet, quindi filtri diversi, meno restrittivi? Che ne dice? Sì, c'è un problema, il problema che sottolineava è un problema molto serio, che poi questi filtri in effetti sono difficilmente personalizzabili. Ecco. Che filtrano un po' tutto, ma io lo vedo, io stessa in università abbiamo dei filtri, per cui certe ricerche dall'università io non posso farle perché funzionano. Perché donna, no, non perché no, donna. È vero, adesso lo diciamo ridendo, però è vero, certe ricerche non si possono fare, ad esempio se io cerco i giochi online per bambini, viene percepito come un contenuto non serio che un ricercatore universitario non dovrebbe visualizzare, quindi non lo faccio dall'università. Ma pensi un po', adesso ci farò anche io caso, se magari qui in azienda mi mettono qualche filtro per il fatto che sono una donna. Professoressa Mascheroni, è tutto molto interessante quello che ci stava raccontando, sono certa che con Nicoletta Carbone ritorneremo su questi argomenti, perché quando si tratta di esaminare a 360 gradi la relazione genitori-figli, qua veramente ogni modo per toccare questo argomento è assolutamente ben accolto dai nostri ascoltatori. Grazie per essere stata con noi. La ringrazio, arrivederci. Buona giornata. Grazie, complimenti, buona giornata per questo studio. Noi adesso invece andiamo a cambiare completamente argomento. Allora, andiamo a parlare di mercati finanziari. Lo sapete, c'è un appuntamento fisso ogni settimana a Cuore e Denari e parliamo naturalmente di borse, mercati, azioni, obbligazioni, valute, chi più ne ha più ne metta. Quest'ultimo mese si è vista forse una volatilità un pochino più modesta dei mesi passati, lo dicevamo anche la settimana scorsa, però le incognite che devono gestire gli operatori dei mercati finanziari sono sempre le stesse, non è che ci siano state dei ribaltoni di argomento, non è che ci siano state delle schiarite particolari su alcuni temi. Ecco perché c'è la convinzione diffusa che avremo qualche altro mese vulnerabile, allora forse è il caso di prendere qualche precauzione oppure di prepararci a momenti di volatilità che saranno un po' più accentuati forse prossimamente. Di sicuro un tema importante è la Gran Bretagna, siamo alla vigilia del referendum in Inghilterra, sì o no all'Unione Europea, ma noi non parliamo solo di questo in questa nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Allora, abbiamo parlato di zanzare all'inizio, chissà cosa sta infastidendo particolarmente il mercato che torna ad essere molto suscettibile. Stamattina tempesteremo di domande, non di pizzicotti. Vittorio Gaudi, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, ben buongiorno, ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, intanto peraltro sto guardando cosa succede questa mattina dopo una partenza che è stata di nuovo pessima per i mercati, adesso tutto volge al meglio, abbiamo più 0,4% a Milano, a Parigi, a Francoforte, Londra si sta portando sulla parità. E vi racconto anche di un altro dato diffuso proprio in questo momento, riguarda il mercato immobiliare. Gli italiani tornano ad investire sulla casa, riparte il mercato delle abitazioni, sta accelerando la ripresa, nel 2015 c'è un più 6,5% rispetto all'anno precedente, le case compravendute sono state 449.000, sono dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate che sono illustrati oggi in occasione della presentazione del rapporto immobiliare residenziale realizzato appunto in collaborazione con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Beh, insomma, per le banche anche questo è un buon